Ieri il PDL bolognese ha organizzato un convegno per ricordare la strage di Ustica. In quell'occasione il sottosegretario Carlo Giovanardi ha contestato alcune delle affermazioni di Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Familiari Vittime della Strage di Ustica. Sentiamo Giovanardi al microfono di Paola Nania. Anche noi vogliamo commemorare le vittime e crediamo che la cosa migliore per commemorarle, ci saranno anche familiari delle vittime fra di noi, c'è quello di scoprire la verità su chi ha fatto esplodere l'aereo di Ustica. Ora, la cosa singolare è che dopo la magistratura, la Cassazione con sentenza passata in giudicato, la commissione strage, le commissioni tecniche d'inchiesta formate dai 12 più grandi specialisti internazionali, tra cui due inglesi, due canadesi, due svedesi, e poi tutta la documentazione che ci ha dato la NATO, hanno dimostrato in maniera incontrovertibile che non c'è stata nessuna battaglia aerea, nessun missile, ma la commissione tecnica in 4 anni di lavoro ha spiegato per filo e per segno che l'aereo è stato abbattuto da una bomba che esplosa a bordo. È veramente incredibile che si continuino ad accreditare versioni che la NATO non ha mai fatto proprie. Anche ieri come governo italiano ho parlato con la NATO e ci ha confermato che questi documenti di cui parla Purgatori sul Corriere sono assolutamente inesistenti. È singolare che dopo 31 anni si continui a parlare di cose inesistenti. Lei si riferisce, tra l'altro, al di là di Purgatori sul Corriere della Sera, anche a Daria Bonfietti, che è la presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime. Sì, che continua imperterrita a dire cose assolutamente destituite di fondamento, perché continua a spacciare un atto istruttorio interno, quello di Priore, all'inizio del processo, in cui lui associa alcuni e rinviò a giudizio altri, ma quell'atto istruttorio è stato sconfessato in primo grado, in secondo grado e in Cassazione, con sentenza passata in giudicato, che ha assolto tutti gli imputati da Priore e ha scritto nero su bianco che non c'è nessun elemento che possa portare a descrivere questa supposta battaglia aerea. Noi sappiamo tutti i 21 aerei che erano in volo quella notte, dove erano, a che ora erano, e non c'è nessuno di quegli aerei che fosse in prossimità del 19 nel momento in cui esplose. Ed è tutto anche per questa puntata. Continuate a seguirci e a scriverci controluce@radio24.it. Buona giornata.